50 domande su Gesù. Ok, chi furono gli evangelisti? L'importanza dei Vangeli è che ci trasmettono la predicazione degli apostoli e che gli evangelisti furono o apostoli o uomini apostolici, come afferma la Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Con questo si conferma quanto è stato ricevuto dalla tradizione. Gli autori dei Vangeli sono Matteo, Giovanni, Luca e Marco. Di questi, i primi due figurano nella lista dei 12 apostoli e gli altri due figurano come discepoli, rispettivamente, di San Paolo e San Pietro. La ricerca moderna, nell'analizzare criticamente questa tradizione, non vede grandi inconvenienti nell'attribuzione a Marco e a Luca dei loro rispettivi Vangeli. Invece, analizza con occhi più critici la paternità di Matteo e di Giovanni. Si suole affermare che questa attribuzione vuole mettere in evidenza la tradizione apostolica da cui provengono gli scritti, non che gli stessi apostoli siano stati gli autori materiali dei testi. Quello che è importante, pertanto, non è la persona concreta che abbia scritto il Vangelo, ma l'autorità apostolica che è dietro ad ognuno di essi. A metà del secondo secolo, San Giustino parla delle memorie degli apostoli o Vangeli che si leggevano nella riunione liturgica. Con questo si vogliono spiegare due cose: l'origine apostolica di questi scritti e il fatto che si conservavano per essere letti pubblicamente. Poco dopo, nello stesso secondo secolo, altri scrittori già ci dicono che i Vangeli apostolici erano quattro e solo quattro. Così Origene afferma. La Chiesa ha quattro Vangeli, gli eretici moltissimi, fra essi uno è stato scritto secondo gli Egizi, altri secondo i dodici apostoli. Basilide si azzardò a scrivere un Vangelo e metterlo sotto il suo nome. Conosco un certo Vangelo intitolato secondo Tommaso e un altro secondo Mattia, e così ne leggiamo molti altri. Espressioni simili si trovano in Sant'Ireneo che inoltre aggiunge a un certo punto: il Verbo per mezzo del quale è stato creato l'universo, che è seduto sopra i cherubini e che tutto regge, una volta manifestato agli uomini, ci ha dato il Vangelo quadriforme, Vangelo che è pervaso da un solo spirito. Questa espressione, Vangelo quadriforme, mette in evidenza una cosa molto importante. Il Vangelo è uno. Però la forma è quadrupla. La stessa idea si esprime nei titoli dei Vangeli. I loro autori non vengono indicati come negli scritti dell'epoca con il genitivo di origine, Vangelo di, ma con l'espressione kata, Vangelo secondo. Per esempio, Vangelo secondo Matteo. In questa forma si precisa che il Vangelo è uno, quello di Gesù, ma testimoniato in quattro forme che provengono dagli apostoli e dai discepoli degli apostoli. Si rende manifesta così anche la pluralità nell'unità.